Europa 24. Rafforzare l'unione economica e monetaria con una riforma coraggiosa che la renda più equa e democratica, creando un pilastro sociale e introducendo salari minimi, perché la società viene prima dei mercati. Lo sottolineano i ministri per gli affari europei di Italia, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia in vista del dibattito sulla riforma della governance dell'Eurozona in programma al vertice europeo di fine mese. Nel documento congiunto si chiede anche l'adozione rapida di una Tobin Tax. E veniamo alle trattative con la Grecia per evitarne il fallimento, sentiamo le ultime. La Commissione europea ha definito buone e costruttive le discussioni che il presidente dell'esecutivo comunitario Jean-Claude Juncker ha avuto ieri sera con il premier greco Alexis Tsipras. La cena è stata utile per concentrarci sull'essenziale. Siamo alla ricerca di un accordo equilibrato, ha spiegato Margaritis Skinas, il portavoce della Commissione. Le parti sono alla ricerca di un'intesa che permetta ai creditori di garantire nuovi aiuti ad Atene pur di evitare un fallimento del paese. Il momento è delicato perché la Grecia è a rischio di una crisi di liquidità. Proprio domani deve rimborsare 300 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale. Per il primo ministro greco la scelta è impegnativa, stretto com'è tra le esigenze del bilancio nazionale e le sue promesse elettorali. Non può permettersi di accettare a scatola chiusa le proposte che gli sono state presentate dai creditori e sta quindi cercando disperatamente di strappare nuove concessioni. I nodi sono il sistema pensionistico e il diritto del lavoro. Tsipras deve trovare un difficile equilibrio tra quanto egli è pronto ad accettare e quanto i creditori sono pronti ad offrire, pur di evitare un fallimento che avrebbe comunque ripercussioni per l'intera zona euro. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Sull'immigrazione no ad un'Unione Europea chiusa e senza cuore, così il presidente dell'esecutivo europeo Jean-Claude Juncker, che dice la Commissione insisterà con gli Stati membri per questa buona causa. Intanto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che gli Stati membri possono imporre ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo l'obbligo di superare un esame di integrazione civica. La Corte ha così respinto il ricorso di due cittadine extra UE residenti in Olanda da oltre 7 anni che hanno impugnato l'obbligo del governo di superare un esame di educazione civica e di lingua olandese. Per la Corte l'obbligo non viola il diritto del soggiornante e favorisce l'integrazione. Firmata oggi a Bruxelles all'interno delle giornate europee dello sviluppo, una partnership fra la Commissione europea e 5 comunità economiche africane dell'Oceano Indiano. Si tratta di un accordo di cooperazione per i prossimi 5 anni. Nell'ultima delle due giornate si discute di come migliorare gli aiuti allo sviluppo comunitari. Molti paesi non hanno raggiunto l'obiettivo dello 0,7% del PIL. Dà comunque un giudizio positivo a Arancha Gonzales, direttrice esecutiva del Centro di Commercio Internazionale. Intervistata Sergio Nava. L'Europa sta adesso passa per una fase un po' pessimista. Io vedo l'Europa piuttosto da un punto di vista più positivo. L'Europa prima di tutto ha aperto il suo mercato a paesi, ai prodotti e servizi di questi paesi più poveri. Credo che quella è una precondizione necessaria. Dobbiamo cominciare lì. Secondo, l'Europa è il primo fornitore di aiuto allo sviluppo nel mondo. E quello buono, non è buono perché è una questione di carità per l'Europa, è importante per l'Europa perché si aiuta a sviluppare altri paesi. Questi paesi non sono all'origine dei problemi di migrazioni, di guerre, di conflitto. Più aiutiamo ai paesi a svilupparsi, più si riduce i rischi che questi paesi creano situazioni di instabilità. Dunque l'Europa ha capito che c'è un interesse proprio a aiutare questi paesi. A me mi piace molto l'aiuto allo sviluppo europeo perché è un mischio intelligente, secondo me, di aiuto diciamo più sociale, l'educazione in paesi terzi, aiuto a sviluppare i diritti umani, aiuto ai bambini, però anche un aiuto allo sviluppo economico. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.